Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 14 dicembre, puntata numero 12 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e a pochi giorni dalla caduta del regime siriano di Bashar al-Assad cercheremo di capire e di comprendere le cause, gli accadimenti e le possibili conseguenze di quello che per molti osservatori appare come un evento del tutto inaspettato. Bashar al-Assad era al potere da 24 anni dalla morte del padre Hafez, che aveva preso il potere nel 1971 inaugurando decenni di una vera e propria dinastia politica per la guida del regime siriano. Dallo scoppio delle primavere arabe alla fine del 2010 la Siria è stata attraversata da processi di grande instabilità e di crisi che però in tutto il decennio passato non hanno mai effettivamente e concretamente determinato una sfida frontale per il regime di Assad. Eppure sono bastati pochi giorni perché il regime si sgretolasse, l'esercito abbandonasse le proprie postazioni e si profilasse per il paese un futuro completamente diverso da quello che si prospettava solo fino a qualche giorno fa. La Siria è oggi teatro di una guerra mondiale. Guerra mondiale in Siria è il titolo di un numero di Limes, rivista italiana di geopolitica, uscito nel marzo del 2013, io mi limito semplicemente a riproporlo per la sua capacità di sintesi dei processi che si stanno vivendo anche in questi giorni, 10 anni dopo. In Siria infatti si concentrano, si coagulano e si scontrano gli interessi di molti paesi della regione, Turchia, Iran e di molte forze politico-religiose come Hezbollah e di potenze internazionali come la Russia, che proprio in Siria ha una base militare nella città costiera mediterranea di Latakia. C'è poi Israele, che con la Siria ha sempre avuto un rapporto complicato e che infatti in questi giorni è stata protagonista di occupazioni di territorio. Ma come si è arrivati a questo punto e come è stato possibile determinare un cambio di paradigma politico e sociale così netto in pochi giorni? Chi sono i ribelli che fino a questo momento stanno conducendo una transizione politica e istituzionale non violenta, che non ha determinato grossi spargimenti di sangue, come molti hanno fatto notare? Chi sono i ribelli che guideranno verosimilmente il paese nel prossimo futuro? Come si stanno comportando le potenze regionali e quelle internazionali all'interno della transizione che si è aperta in Siria, e che cosa ne sarà del futuro politico e sociale di un paese caratterizzato da una grandissima diversità religiosa e da un mosaico anche etnico e politico estremamente singolare? Lo chiederemo all'ospite della puntata di oggi dopo qualche minuto di musica. A tra poco. داوێکی وام لێ قەوما کە ئیتر عقڵ و هۆشم چینەما هێندە سەیرە نازانم بەخەون دیتوومە یا لەسەر پەردەی سینەما تووشی دێوەرەیەک بووم وتم شەوانە بێخەوم پێی وتم چا دەبی دەرمانێکم هەیە بیخۆی هەموو شەوانە خەڵکی باش چۆن تۆش وا دەبی یکم شو که درمانه کم خوارد به قیز و بیز و ترس و دو دلی اکاتی آزده شوی دبوره و چون بری بیانی لخوی را پری پیش همو کس لبازار شار درگای دوکانی خوم کرده وار تا ایواره کرسی زورم فروش تو پاره یکی باشم برده وار جنینم لبیر نما و نازانم ده مرز بیشم هی جارو برده بیت هاوری ریفی وانم بره و مال سیر او جر پی وکانی لای من سوک نبون روشی شیرین مینه کر بر روشی تال یکم جار بو بدلی که خوش لگری زماوند یکی دا حال پاری قم بیجا کد دا جار نو میه نو شباشم دا دوایش سیدی قام کنم لیکوی لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Questi erano i Rockus, la notizia del momento è quella che anticipavamo in introduzione, la caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, avvenuto proprio in questi giorni dopo una parentesi di instabilità che è stato l'episodio più recente della storia politica siriana, ma sarebbe più corretto dire dopo un lungo decennio di instabilità politica e sociale. Per approfondire questo argomento abbiamo oggi come ospite Massimiliano Trentin, docente di storia e istituzioni dell'ASA all'Università di Bologna ed esperto di Medio Oriente. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e tutte. Dunque, Massimiliano, come si è arrivati alla caduta del regime di Bashar al-Assad in una manciata di giorni a fronte appunto di un decennio e oltre di instabilità nel paese medio orientale? Si è giunti in maniera sorprendente, inattesa, perché la maggior parte degli osservatori non si aspettava tendenzialmente una incapacità o meglio anche non volontà di ostacolare e combattere le forze ribelli che da nord e poi da sud sono intervenute contro le forze dell'esercito siriano nelle loro molteplici espressioni. Se le forze del nord volessero e fossero nei preparativi di un'offensiva, di una ripresa degli attacchi, si sapeva da un po' di tempo, nel senso le cronache, gli avvertimenti c'erano, non chiaramente di questa portata, ma di carattere più limitato, ma c'erano. Che il paese poi si fosse governo un po' isolato dal punto di vista regionale, questa era anche un po' nella cronaca degli ultimi mesi, perché aveva dato picche ai tentativi di mediazione, negoziato, sostenuti dalla Russia con la Turchia per un tentativo di risolvere la questione nel nord del paese, che ci fosse uno stallo anche nei confronti del resto dei paesi arabi e delle Lega Araba sui temi del contrabbando di armi, di droga, in cambio dell'aiuto e la ricostruzione. Questo era già un elemento che insomma era le cronache, però l'elemento che poi anche gli stessi grandi alleati, gli strategici alleati della Siria, del governo, come l'Iran e la Russia fossero da un lato in altre faccende affaccendati come la Russia nell'Ucraina che assorbe tutte le forze russe e l'Iran un po' costretto diciamo a un confronto militare diretto con Israele e a subirne anche questa superiorità militare ed intelligence, insomma erano elementi che si sapevano. Quello che non si sapeva era lo stato un po' di deterioramento delle forze interne dell'esercito siriano a sostegno di Assad. Questo è l'elemento che ha cambiato tutte le considerazioni e ha portato senza grandi spargimenti di sangue la situazione al collasso per quanto riguarda il sistema politico e militare del governo di Damasco. Questo è l'elemento veramente sorprendente e decisivo. Sì, dalle tue parole ci sembra di capire che insomma è la sintesi di condizioni e di situazioni che si sono create negli ultimi giorni, sono state un po' la goccia che hanno fatto traboccare un vaso che si è riempito nel corso degli anni, no? Qual è lo stato dell'arte, dell'intreccio tra quello che succede in Siria da un punto di vista politico e anche sociale e quanto invece accade fuori dalla Siria rispetto alle influenze che hanno attori come quelli che abbiamo citato, ma anche altri? Ti faccio questa domanda non soltanto relativamente alla descrizione di quello che sta succedendo in questi giorni e che è successo in questi giorni, ma anche dei possibili scenari che si potrebbero aprire, seppure è difficile fare delle previsioni da qui a breve per il futuro politico della Siria. Previsioni, onestamente, mi rifiuto di farle per cautela. Hai ragione. Anche però adesso al di là di tutto. Per autotutela, è corretto. Per autotutela, anche se vogliamo. Venendo al primo punto, i legami tra livello locale e livello regionale e internazionale sono strettissimi. La condizione appunto di deterioramento delle forze locali interne alla Siria a sostegno del governo, a mio avviso, può essere compreso solo se consideriamo lo stato di crisi economica e sociale devastante che ha colpito la Siria, soprattutto a partire dagli anni del 2020 in poi. Una condizione di miseria, di fatto, diffusa, diffusissima, di fragilità, di vulnerabilità, insomma, i termini si sprecano anche dal punto di vista di standard ufficiali, ma fondamentalmente di miseria per gran parte della popolazione, anche per quella che aveva sostenuto il governo di al-Assad per lungo tempo, addirittura ne faceva parte nelle sue diverse espressioni, per i quali che avevano combattuto la guerra e di fatto in buona parte l'avevano vinta, ma che non avevano ricevuto i cosiddetti dividendi della vittoria, per cui le condizioni sociali veramente erano crollate. Ora, di fatto, avevano, potremmo dire, una formula perso la pace in termini economici e sociali. E questo, ripeto, secondo me è molto importante per capire la dimensione locale. La dimensione regionale è quella determinata dalla guerra tra Israele e Hamas a seguito degli attentati, gli attacchi e i massacri anche del 7 ottobre del 2023, che hanno determinato in generale lo scardinamento da parte di Israele, grazie alla sua superiorità militare, di tutte quelle forze che per lungo tempo hanno partecipato, si sono riconosciute nel cosiddetto asse della resistenza, cioè un asse che contrastava, ostacolava il predominio militare israeliano nei territori occupati palestinesi, come anche, diciamo, nelle relazioni con il resto degli stati e delle forze politiche nella regione, con il sostegno poi anche statunitense. Ecco, Israele, il cui obiettivo primario, primo e ultimo, sono i palestinesi, cioè chiudere la questione palestinese anche eliminandoli o mandandoli via, e diciamo si è mosso per questo obiettivo anche colpendo tutti gli alleati regionali o coloro che sostengono nella regione i palestinesi, anche in maniera strumentale e pelosa, potremmo dire, ma che comunque lo hanno fatto. E tra questi sono sicuramente il movimento Hezbollah, l'Iran, e in mezzo c'era anche, come anello più debole, anche la Siria. Ora, essendosi scontrata direttamente con Hezbollah, soprattutto a partire da questo autunno, e anche con l'Iran, avendo inferto dei colpi non mortali, ma comunque molto forti, e tendenzialmente queste due forze non potevano più intervenire a favore del governo in maniera così determinante come avevano fatto nel 2013, nel 2014, fino al 2017, assieme alla Russia, per determinare la sopravvivenza e poi la supremazia militare del governo di Damasco. Quindi un quadro regionale che è andato a influire in maniera diretta scritta anche su un quadro locale siriano e che sta ridisegnando i rapporti di forza in tutta la regione, proprio a partire da questa superiorità militare imposta e dimostrata da parte di Israele, che appunto si permette di attaccare, bombardare, distruggere le capacità militari di tutti i suoi oppositori in tutta la regione senza trovare grandi ostacoli, oltre che a livello regionale, a livello locale, oltre che a livello internazionale, perché a livello internazionale ormai si muove in maniera quasi con completa impunità. Quindi questo è il legame tra il livello locale, particolare, specifico siriano e quello regionale, nella quale i gruppi dei ribelli hanno colto l'opportunità, si sono inseriti e si è inserita anche la Turchia, che non avendo trovato riscontro nella via negoziale con Damasco, ha scelto di dare luce verde o carta bianca ai quei ribelli che erano confinati nel nord-ovest del paese e che erano stati garantiti anche in termini militari, oltre che in termini economici e umanitari, essenzialmente dalla Turchia. Questo, è il quadro regionale, quindi un quadro regionale determinato dalla guerra a Gaza, dalle sue ripercussioni regionali, e che è stato colto come un'opportunità dalla Turchia e dai ribelli, che non a caso, infatti, cercano di accreditarsi durante le operazioni di guerra e ancora oggi in termini di contrasto e ostacolo alla presenza iraniana, quindi rientrando all'interno di una cornice di linguaggio e di priorità politiche che è quella poi anche fatta propria, per esempio, dagli Stati Uniti nel loro sostegno ad Israele. Un intreccio piuttosto complesso che ti ringrazio per averci aiutato a ricostruire. Approfitto della tua pazienza, Massimiliano, per un'ultima domanda, per chiederti di aiutarci a capire che cosa sta succedendo. Lo hai anticipato, il paese vive anni di fortissima depressione economica e quindi di impoverimento anche da un punto di vista sociale. Sappiamo che la Siria è un paese estremamente variegato dal punto di vista etnico e soprattutto religioso. La parcellizzazione, se così vogliamo chiamare, dei gruppi anche politici che fanno riferimento ai singoli territori della Siria è una questione ben nota in questo puzzle, Massimiliano. Come ci aiuteresti a districarci? Qual è la situazione sul campo e che cosa intravedi nei sommovimenti in atto in questo momento? Hai parlato anche di Turchia, ce lo ricordiamo qualche anno fa l'appoggio delle forze turche allo Stato Islamico nel Kurdistan siriano, nel Rojava. Da questo punto di vista, sul campo, nella analisi del tessuto interno alla Siria, che cosa sta succedendo e quali sono le difficoltà che si troverà ad affrontare il governo di transizione e poi eventualmente le autorità politiche che avranno, se ce l'avranno davvero, in carico le sorti della Siria. È difficile a dirsi, la situazione è di quella di un paese diviso in tante zone di influenza. Adesso abbiamo la riunificazione tra quell'area ribelle del nord, guidata comunque da una forza che è fondamentalista dell'Islam politico, anche nelle sue versioni anche radicali, che ha conquistato le zone una volta sotto il controllo di Al-Assad, e tuttavia ricordiamoci che la capitale è stata anche conquistata da altre forze ribelli provenienti dal sud. A fronte di un tentativo di toni concilianti e cooperativi da parte delle forze guidate appunto da Ahrar Tahrir al-Sham del nord, però rimane un paese diviso. Ora, quello che possiamo, per avere un po' di criteri, un po' di giudizio su come si muovono queste forze, come anche altre forze, possono essere: uno, una transizione di potere a guida esclusiva di queste forze, denominate HTS, e oppure in maniera cooperativa e quindi aprendo appena possibile un processo costituente allargato, prima cosa, che di fatto è quello che hanno sempre richiesto le risoluzioni delle Nazioni Unite. Quindi queste forze si richiameranno e si entreranno all'interno di quel percorso oppure no, prima cosa. Seconda cosa, saranno in grado di applicare non solo fin dall'inizio, ma anche nel breve o quantomeno nel medio termine, forme di governo e di standard, insomma anche di condotta, che rispecchino la pluralità, la molteplicità delle appartenenze non solo sociali, comunitarie, non solo religiose, ma anche politiche di una società variegata e plurale come quella siriana, oppure tenteranno di imporre un'unica visione dominante, che è quella loro di un Islam politico radicale. Terzo elemento, e qua a mio avviso anche molto importante, cominceranno a mettere in piedi delle strutture di gestione della giustizia, diciamo così, transitoria, anche nei confronti di figure del vecchio regime che hanno commesso dei crimini, le quali saranno lasciate in balia di vendette personali, oppure diciamo saranno soggette a delle procedure di verifica dei crimini commessi. Questo è importante, perché altrimenti, se lasciato la vendetta a livello personale, sono dei classici elementi che poi possono portare allo scontro comunitario. E infine la famosa questione dei curdi. Siccome i curdi sono l'altra grande forza militare e politica che governa un terzo del paese, tra cui anche le risorse petrolifere del nord-est, e che hanno un progetto politico veramente agli antipodi di quello dell'Islam politico radicale, riusciranno a trovare un minimo comune denominatore, un processo costituente che li possa permettere di coinvolgerli in maniera cooperativa, oppure andranno ad uno scontro? Ricordiamoci che la Turchia, che ha sostenuto i ribelli, ha come principale nemico esattamente la Rojava e qualsiasi progetto di autonomia curda, per paura di una ripercussione al proprio interno. Ecco, questi a mio avviso sono alcuni criteri per valutare le azioni di questo nuovo governo al potere, da un lato, dall'altro lato anche la molteplicità delle forze sul campo. Per cui, ecco, non mi permetto di fare alcuna, diciamo, ipotesi di percorso futuro, ma di suggerire alcuni criteri per valutare l'operato un po' di tutte le forze. Sì, sicuramente gli interrogativi aperti sono ancora tanti e tanto importanti, staremo insomma un po' a vedere. Massimiliano, io ti ringrazio davvero tanto per la tua disponibilità e per averci aiutato a fare un po' di chiarezza in questo quadro che ha molto di complesso, insomma, che ha molto anche di inquieto e di irrequieto. Grazie Massimiliano Trentin. Grazie a te, grazie a tutte e a tutti. Buona giornata e buona serata. Prima di chiudere vi ricordo che fino al 6 gennaio è possibile supportare Radio Città Fucico aderendo alla campagna Una Radio Incontenibile. Tutte le informazioni su www.radiocittafucico.it/abbonamenti. Noi ci risentiamo sabato prossimo per l'ultima puntata della stagione, sempre sulle frequenze di Radio Città Fucico. Out of here. Cause everybody has a buzzing heart. Poison.